Il signor Hale sorprese Margaret una sera mentre era seduta a cucire, chiedendole improvvisamente: Margaret, hai mai avuto un qualche motivo di pensare che il signor Thornton provasse qualcosa per te? Quasi arrossì facendo quella domanda, ma quella trovata del signor Bell lo perseguitava e le parole gli uscirono di bocca prima di rendersi conto di quello che stava per fare. Margaret non rispose subito, ma poiché lei teneva la testa china, immaginò quale potesse essere la sua risposta. Sì, credo. Oh, papà, avrei dovuto dirtelo. E fece cadere il suo lavoro coprendosi il viso con le mani. Oh, no, cara, non pensare che io sia curioso e impertinente. Sono sicuro che me lo avresti detto se avessi sentito che potevi ricambiare il suo affetto. Te ne ha parlato? Nessuna risposta sul momento, ma poco dopo un restio delicato, breve. Sì. E tu lo hai rifiutato? Un lungo sospiro. Un atteggiamento più indifeso, senza energia, e un altro. Sì. Ma prima che suo padre potesse parlare, Margaret sollevò il capo. Il suo viso era roseo di una vergogna che la rendeva in qualche modo bella, e fissando gli occhi su di lui disse: Ora, papà. Ti ho detto questo e di più non posso dirti. E poi è così doloroso tutto questo per me. Ogni parola e ogni azione legate a questa cosa hanno un'esprimibile amarezza e non riesco a sopportarne il pensiero. Oh, papà, mi dispiace per averti fatto perdere questo amico, ma non potevo fare altrimenti, ma oh, mi dispiace tanto. Si sedette per terra e posò la testa sulle ginocchia del padre. Dispiace anche a me, cara. Il signor Bell mi ha fatto quasi trasalire quando mi ha suggerito un'idea del genere. Il signor Bell? Oh, il signor Bell se n'è accorto? Un po', ma si è messo in testa che tu, come devo dirlo, che tu fossi ben disposta nei confronti del signor Thornton. Sapevo che non poteva essere così. Ho sperato che tutta la faccenda fosse solo una fantasia, ma sapevo troppo bene quali erano i tuoi veri sentimenti per supporre che il signor Thornton potesse mai interessarti in quel senso, ne sono molto dispiaciuto. Restarono immobili e in silenzio per alcuni minuti, ma poco dopo, accarezzandole teneralmente la guancia, rimase alquanto sbalordito di trovare il suo viso bagnato di lacrime. Appena la toccò, lei balzò in piedi e, sforzandosi di fare un sorriso radioso, si mise a parlare dei Lennox con un desiderio così intenso di cambiare argomento che Hale si intenerì troppo per tentare di forzare la conversazione sull'argomento precedente. Domani, sì, domani torneranno in Harley Street. Oh, che strano sarà. Mi chiedo quale stanza trasformeranno nella camera del bambino. Zia Shaw sarà contenta con il piccolo. Immaginati Edith come mamma. E il capitano Lennox, mi domando cosa farà della sua vita adesso che ha venduto tutto. Sai cosa penso? Disse il padre, impaziente di assecondarla su quel nuovo argomento che pareva interessarle. Penso che farò a meno di te per 2 settimane. Giusto il tempo di fare un salto in città a trovare i nostri viaggiatori. Riusciresti a sapere molto di più sulle possibilità di Frederick in mezz'ora di conversazione con il signor Lennox che in una dozzina di lettere. Così di fatto uniresti gli affari al piacere. Oh no, no, papà, non puoi fare a meno di me. E cosa più importante, non voglio io. Poi, dopo una pausa, aggiunse: Sto tristemente perdendo le speranze riguardo a Frederick. Sta cercando di dircelo con un certo tatto, ma ho capito che lo stesso Lennox non ha speranze di trovare testimoni dopo così tanti anni, no? Disse. Questa bolla di sapone era deliziosa e molto cara ai nostri cuori, ma è scoppiata come tante altre. E dobbiamo consolarci con la gioia che Frederick sia così felice e con l'amore che ci lega. Quindi non ferirmi dicendomi che sei capace di fare a meno di me, papà, perché ti assicuro che non lo sei. Tuttavia, l'idea di un cambiamento si radicò e germogliò nel cuore di Margaret, anche se non nel modo in cui il padre l'aveva proposto all'inizio. Incominciò a pensare a quanto una cosa del genere sarebbe stata auspicabile per suo padre, il cui stato d'animo, sempre debole, si stava adesso spegnendo inesorabilmente. E le condizioni di salute, anche se non si lamentava mai, erano state irrimediabilmente influenzate dalla malattia e dalla morte della moglie. Gli restavano le solite ore di lettura con i suoi allievi, ma tutto quel dare senza ricevere non poteva essere definito affatto avere una compagnia, come ai vecchi tempi quando il signor Thornton andava a lezione da lui. Margaret era consapevole che sotto quello strato di sofferenza si celava un bisogno di cui lui era ignaro, il bisogno dell'amicizia di un uomo. A Helston erano continui gli scambi di visite con i parroci vicini, e i poveri che lavoravano nei campi o che percorrevano senza fretta la strada verso casa la vigilia della festa o che portavano al pascolo il loro bestiame nel bosco erano sempre disponibili a parlare o a rispondere. A Milton erano tutti troppo affaccendati per fermarsi a conversare tranquillamente o a scambiarsi idee approfondite. Quello che dicevano riguardava il lavoro, un tema sempre attuale. E quando la tensione mentale legata ai loro affari svaniva, sprofondavano in un sonno sterile fino alla mattina seguente. L'operaio non si vedeva in giro dopo che il lavoro della giornata era finito. Era andato a lezione di qualcosa, in qualche circolo, in qualche birreria, a seconda del carattere. Il signor Hale pensò di provare a tenere un corso per una qualche istituzione, ma lo considerava un tale doveroso obbligo. Ed era così indifferente al lavoro e al suo fine che Margaret era sicura non sarebbe stato ben fatto finché lui stesso non fosse riuscito a considerarlo con un po' di entusiasmo. 41. La fine del viaggio. Così l'inverno volgeva al termine e le giornate stavano iniziando ad allungarsi, senza portare con sé neanche un po' di quella luce di speranza che solitamente accompagna i raggi del sole di febbraio. La signora Thornton aveva ovviamente smesso di far visita agli Hale. Il signor Thornton continuava a farlo ogni tanto, ma le sue visite erano indirizzate al padre e confinate nello studio. Il signor Hale parlava sempre allo stesso modo di lui. A dire il vero, la sporadicità di quegli incontri ne aumentava più che mai il valore ai suoi occhi. E stando a quello che Margaret riuscì a trarre da ciò che aveva detto il signor Thornton, non era per una qualche offesa o per un'irritazione che le visite si erano interrotte. Gli affari avevano avuto delle complicazioni a causa dello sciopero e necessitavano di un'attenzione maggiore di quella dell'inverno precedente. Anzi, Margaret riuscì persino a scoprire che parlava di lei di tanto in tanto e sempre, per quanto ne poteva capire, nello stesso modo tranquillo e amichevole, senza mai evitare di menzionare il suo nome né cercando di farlo. Non era di buon umore per ravvivare il morale del padre. La noiosa tranquillità del presente era stata preceduta da un così lungo periodo di inquietudine e preoccupazione, persino intervallato da vicende tempestose, che la mente di Margaret aveva perso la propria elasticità. Cercò di tenersi occupata facendo da insegnante ai due figli più piccoli di Boucher e dedicandosi con una certa fatica alla beneficenza, con fatica. Va detto con la massima onestà, perché il suo cuore pareva indifferente allo scopo di tutti quegli sforzi. E sebbene svolgesse i suoi compiti puntualmente e con grandissima premura, era più lontana che mai dal provare una qualche forma di gioia. La sua vita sembrava ancora deprimente e triste. L'unica cosa che le riusciva bene, che scaturiva da una pietà inconscia, era confortare e consolare in silenzio suo padre. Non c'era un suo stato d'animo che non trovasse la pronta comprensione di Margaret, nessun suo desiderio che lei non cercasse di prevedere, di esaurire. Si trattava ovviamente di desideri semplici, espressi con difficoltà e non senza esitazioni o scuse. Il suo docile spirito di obbedienza non era mai stato così completo e assoluto. Marzo portò la notizia del matrimonio di Frederick. Scrissero lui e Dolores, lei in un inglese spagnoleggiante, come era naturale che fosse, e lui con piccoli giri di parole e inversioni che dimostravano quanto la lingua del paese della sposa lo stesse influenzando. Dopo aver ricevuto la lettera di Henry Lennox, che annunciava che c'erano poche speranze che fosse prosciolto davanti a una corte marziale in assenza dei testimoni, Frederick aveva scritto a Margaret una lettera piuttosto appassionata, che parlava della sua rinuncia all'Inghilterra come patria. Desiderava poter rinnegare le sue origini e dichiarava che non avrebbe accettato il perdono se glielo avessero offerto, né sarebbe tornato a vivere nel suo paese se glielo avessero concesso. Tutto ciò fece piangere Margaret disperatamente. Talmente innaturale le parve il contenuto della lettera alla prima lettura, ma riflettendo vide, piuttosto tra le righe, il pathos della delusione che aveva distrutto ogni speranza del ragazzo e sentì che non c'era niente da fare se non avere pazienza. Nella lettera successiva, Frederick parlò del futuro con così tanta gioia che al passato non lasciò più alcun pensiero. E Margaret decise di adoperare per se stessa quella pazienza che aveva tanto invocato per lui. Avrebbe dovuto imparare ad attendere. Ma le lettere di Dolores, così gradevoli, timide e fanciullesche, stavano iniziando a esercitare un certo fascino sia su Margaret che sul padre. La giovane spagnola era evidentemente così ansiosa di fare una bella impressione sui parenti inglesi del suo innamorato che la sua pignoleria femminile spuntava a ogni cancellatura. E insieme alle partecipazioni c'era una mantiglia di pizzo nero scelta dalla stessa Dolores per quella cognata che non aveva mai visto e che Frederick aveva descritto come un modello di bellezza, intelligenza e virtù. La posizione sociale di Frederick raggiunse con questo matrimonio il livello più alto che potessero desiderare. Barbour & Company era una delle più grandi aziende della Spagna e in essa venne accolto come socio più giovane. Margaret accennò un sorriso e poi sospirò, ricordandosi come fosse ieri le filippiche che avevano pronunciato contro il commercio. Ed ecco quel preux chevalier, il suo fratello, diventato un mercante industriale. Ma poi si ribellò a se stessa e in silenzio protestò per aver confuso un mercante spagnolo e un industriale di Milton. Beh, commercio no, Frederick era molto molto felice. Dolores doveva essere incantevole e la mantiglia era deliziosa. E poi Margaret fece ritorno alla sua vita presente. Il padre aveva avuto qualche sporadica difficoltà respiratoria quella primavera, che sul momento lo aveva fatto angosciare in maniera eccessiva. La figlia era meno preoccupata, dato che il disturbo sembrava passeggero, ma il desiderio che lui si liberasse una volta per tutte delle sue maldisposizioni era così forte che la portò a insistere affinché accettasse l'invito a Oxford del signor Bell per aprile. L'invito era esteso anche a Margaret, anzi, di più, le aveva scritto una lettera speciale, imponendole di andare. Tuttavia, lei ebbe la sensazione che sarebbe stato un sollievo maggiore restarsene a casa tranquilla, completamente libera da ogni tipo di responsabilità e riposare la mente e il cuore come non aveva potuto fare negli ultimi 2 anni. Dopo che suo padre si era allontanato in carrozza per andare alla stazione, Margaret percepì quanto a lungo e con quanta pesantezza la sua vita e il suo stato d'animo erano stati oppressi. Era sorpresa, quasi sbalordita di sentire tutta quella libertà. Nessuno che contasse su di lei per una parola di conforto, se non addirittura per una completa felicità. Nessun malato a cui pensare e provvedere poteva permettersi di stare in ozio, di essere silenziosa e sbadata e quello che sembrava avere più valore di tutti gli altri privilegi, poteva permettersi di essere infelice se voleva. Nei mesi passati era stata costretta a stipare tutte le sue preoccupazioni e i suoi pensieri personali in una buia credenza, ma ora aveva il tempo per tirarli fuori, per rammaricarsene, per analizzarli e per cercare il modo giusto per trasformarli in fondamenti di serenità. Per tutte quelle settimane aveva avuto una debole consapevolezza della loro esistenza, sebbene fossero nascosti lontano dalla vista. Adesso, una volta per tutte, li avrebbe presi in considerazione, indicando per ciascuno di essi il giusto significato nella sua vita. Così se ne restò per ore seduta immobile in salotto, ripassando l'asprezza di ogni ricordo con una risolutezza impassibile. Soltanto una volta si mise a piangere, senza freni, al bruciante pensiero della mancanza di fede che aveva portato a quella umiliante menzogna. Non riusciva neanche a riconoscerlo. Ora, il potere della tentazione, i suoi piani per Frederick erano tutti falliti e il peccato giaceva lì come un burattino morto, un burattino che non aveva mai avuto vita, quella menzogna Era stata così ignobile e stupida, vista la luce degli eventi successivi, mentre la fede nella forza della verità era in assoluto la saggezza più grande. In preda alla sua agitazione nervosa, aprì per caso un libro di suo padre, che era sul tavolo. Le parole che attirarono il suo sguardo sembravano fatte proprio per il suo attuale stato di profonda mortificazione. Non vorrei che il mio cuore restasse in queste condizioni, morto di vergogna, cieco, impudente, traditore e sleale verso il tuo Dio e cose simili. Vorrei invece correggerlo verso la compassione. Orsù, cuor mio, eccoci caduti nella fossa, che eravamo così risoluti a rifuggire. Ah, rialziamoci e abbandoniamola per sempre, reclamiamo la misericordia divina e crediamo in essa, cosicché ci possa assistere. Per essere d'ora in avanti più ferme e riprendiamo il cammino dell'umiltà. Coraggio, stiamo pronte in guardia e il divino ci aiuterà. Ah, il cammino dell'umiltà, pensò Margaret, ecco in cosa ho sbagliato. Ma coraggio, piccolo cuore, ritorneremo sui nostri passi, con l'aiuto divino troveremo la strada smarrita. Quindi si alzò. E così, su due piedi, decise di mettersi a fare qualcosa che la distraesse dai suoi pensieri. Per iniziare, chiamò Marta, che stava passando davanti alla porta del salotto, per andare al piano di sopra, e cercò di scoprire cosa ci fosse dietro quell'atteggiamento servile, serio e rispettoso che come una crosta ricopriva il suo vero carattere di un'obbedienza quasi meccanica. Trovò qualche difficoltà a spingere Marta a parlare dei suoi interessi personali, ma alla fine toccò la corda giusta, nominando la signora Thornton. Il viso di Marta si illuminò completamente e con un piccolo incoraggiamento venne fuori una lunga storia di come, quando era bambina, suo padre avesse avuto a che fare con il marito della signora Thornton, anzi, di come si fosse trovato nella posizione di fargli un qualche favore. Di cosa si trattasse, Marta non lo sapeva bene, perché era successo quando era molto piccola e poi si erano verificate delle circostanze che avevano separato le due famiglie. Era ormai cresciuta quando, dato che la condizione del padre, inizialmente impiegato in un magazzino, peggiorò sempre di più e la madre morì, lei e sua sorella, per usare l'esatta espressione di Marta, sarebbero state perdute. Se non fosse stato per la signora Thornton che le aveva cercate e trovate, si era preoccupata per loro e se n'era presa cura. Avevo avuto la febbre ed ero molto debole, e la signora Thornton e anche il signor Thornton si tranquillizzarono soltanto dopo avermi curata in casa loro e mandata al mare e tutto il resto. Il dottore diceva che la febbre era contagiosa, ma a loro non importava nulla. Però alla signorina Fennessy, e infatti andò a stare da quella famiglia con cui stava per imparentarsi. Così, nonostante la paura che si prese all'epoca, tutto ha avuto un lieto fine. La signorina Fanny si sta per sposare? Esclamò Margaret. Sì, è con un ricco signore, per giunta, soltanto che lui è un bel po' più vecchio di lei. Si chiama Watson e le sue fabbriche sono da qualche parte, oltre Haley. È un matrimonio molto conveniente, nonostante i numerosi capelli grigi di lui. A questa informazione Margaret fece seguire un silenzio abbastanza lungo da far rientrare Marta nel suo solito ruolo e a farla tornare con esso alle solite risposte stringate. Si rasserenò, chiese a che ora avrebbe dovuto preparare il tè e lasciò la stanza con la stessa faccia inespressiva con cui era entrata. Margaret dovette rimproverarsi per aver ceduto al brutto vizio nel quale era caduta di recente, di cercare di immaginarsi l'effetto che potesse avere sul signor Thornton ogni evento che lo riguardasse, di cui le giungeva notizia, se potesse piacergli o meno. Il giorno dopo fece lezione ai figli di Boucher, poi una lunga passeggiata che si concluse con una visita a Mary Higgins. Con sua grande sorpresa, Margaret trovò Nicholas già rincasato dal lavoro. Il prolungamento delle ore di luce l'aveva ingannata sull'ora tarda della sera. Anche lui sembrava, dal suo atteggiamento, aver intrapreso un po' di più il cammino dell'umiltà. Era più tranquillo e meno arrogante. «E così il vecchio gentiluomo se n'è andato a fare un viaggio, vero?» disse. «Me l'hanno detto i bambini.» ma sono svegli quelli, sono svegli. Quando penso che le battono le mie ragazze in intelligenza, anche se forse è sbagliato dire così e una di loro è morta e sepolta, C'è qualcosa nell'aria, penso, che spinge la gente ad andare in giro. Il mio padrone, quello là della fabbrica, è da qualche parte in giro per il mondo. Oh, è questo il motivo per cui siete a casa così presto stasera? Chiese Margaret in modo innocente. Nessuno ne sa niente, punto e basta, disse con un certo disprezzo. Non sono mica io quello con due facce, una per il mio padrone e l'altra per la sua schiena. Ho aspettato che tutti gli orologi della città battessero l'ora prima di lasciare il mio lavoro. No, quel Thornton va abbastanza bene per discuterci, ma è troppo buono per essere imbrogliato. Siete stata voi a farmi avere il posto e vi ringrazio per questo. Quella di Thornton non è una brutta fabbrica, come tempo fa. Spostati, figliolo, e recita il tuo bellino alla signorina Margaret. Oh, così va bene, ben dritto sulle gambe, il braccio destro in fuori, teso come uno spiedo. Pronti? Attenti? Via. Il ragazzino recitò un inno metodista, di cui non capiva le parole, troppo difficili per lui, ma ne aveva colto il ritmo vivace e lo ripeteva con quell'accento molto marcato da membro del Parlamento. Dopo che Margaret ebbe opportunamente applaudito, Nicholas gliene chiese un altro e un altro ancora, con grande sorpresa di lei, poiché vedeva che qualcosa di strano e inconscio lo spingeva a provare interesse per quelle cose sacre che aveva scoperto in passato. La consueta ora del tè era passata quando Margaret arrivò a casa, ma si sentiva confortata dal fatto che non ci fosse nessuno ad aspettarla, perché poteva pensare alle sue cose mentre si riposava, invece di darsi il pensiero di scrutare un'altra persona per sapere se dover essere seria o allegra. Dopo il tè, decise di ispezionare un grande pacco di lettere per scegliere quelle che bisognava distruggere. Tra queste, 4 o 5 erano del signor Henry Lennox e riguardavano la faccenda di Frederick. Le lesse più volte con attenzione e all'inizio il suo unico intento era quello di verificare esattamente quali buone probabilità ci fossero che il fratello fosse assolto. Tuttavia, dopo aver finito di leggere l'ultima e aver valutato i pro e contro, si rese palese ai suoi occhi il carattere lievemente personale di quelle missive. Era abbastanza evidente dalla freddezza della formulazione che il signor Lennox non aveva mai dimenticato i suoi sentimenti per lei, qualsiasi fosse l'interesse che aveva per l'argomento della corrispondenza. Erano lettere brillanti, Margaret lo vedeva in un batter d'occhio, ma non vi coglieva un tono amichevole e cordiale. Bisognava conservarle comunque come oggetti di valore. Così le mise accuratamente da parte. Sbrigata a questa piccola incombenza, iniziò a sognare a occhi aperti e il pensiero dell'assenza di suo padre le tornava stranamente in testa quella notte. Quasi si sentiva in colpa per aver percepito la propria solitudine e di conseguenza l'assenza del padre come un sollievo, ma questi 2 giorni l'avevano rimessa a nuovo, si sentiva più forte, piena di ottimistiche speranze. Quei progetti che negli ultimi tempi le erano apparsi come dei doveri, ora le parevano piaceri. Le bende spesse le erano cadute dagli occhi e vedeva qual era chiaramente la sua posizione e la cosa da fare. Oh, se soltanto il signor Thornton avesse riallacciato la loro amicizia spezzata, anzi, se solo fosse passato di tanto in tanto a rallegrare suo padre come un tempo. Anche se lei non l'avesse più visto, sentiva che il futuro avrebbe potuto estendersi davanti a lei, chiaro e uniforme, seppur privo di luminose prospettive. Sospirando, si alzò per andare a dormire. Malgrado il suo "a me basta un passo", malgrado il semplice dovere di onorare suo padre, provava in fondo al cuore una certa preoccupazione e un dolore acuto.